per raggiungere una mobilità più sostenibile sia sì necessario investire sulle infrastrutture e sui servizi, cioè sull'organizzazione dei sistemi di trasporto, su nuove linee di ferrovie e di metropolitane, in alcuni casi anche su nuove autostrade e strade, ma sia contemporaneamente necessario investire una frazione minore, ma a maggior ritorno, sull'informatica applicata ai sistemi di trasporto. Oggi stiamo parlando di informazione, domani parleremo di traffic management, quindi di gestione dei sistemi del traffico, e il giorno dopo si potrà parlare di comunicazione veicolo-veicolo-veicolo-infrastruttura, cosa che peraltro già in alcuni casi, per esempio nel caso del pagamento del pedaggio autostradale attraverso un sistema di free flow, già avviene. Questa è una forma di comunicazione, un po' come accade col telepass, tra il veicolo e l'infrastruttura. Una delle parole chiave nel gergo delle smart city è open data. Parliamo di grandi database pubblici e quindi liberamente consultabili. Per esempio l'elenco di tutti i beni artistici presenti nel territorio di una regione, oppure delle imprese presenti magari nel territorio di una provincia, oppure di tutti i vini biologici presenti in quella provincia. I dati spesso sono già disponibili nelle mani degli enti pubblici, altre volte invece si tratta di dati sparpagliati fra i privati che è necessario raccogliere e mettere insieme. E questo è il caso di un progetto a cui abbiamo dedicato particolare attenzione. Il progetto si chiama Innovance ed è in buona sostanza il primo database nazionale dell'edilizia, una specie di enciclopedia online dei componenti edili e delle opere pubbliche. Di questo ho parlato con il responsabile scientifico Alberto Pavan di ANCE Energia. Sentiamo. Innanzitutto ciò che riguarda l'edilizia comprende circa l'80% della produzione in generale e il database Innovance quindi si popolerà di quasi l'80% della produzione classica manifatturiera, che vanno appunto dai i pannelli solari, alle finestre, alle piastrelle. Il primo lavoro che è stato fatto è stato quello di avere una chiarezza terminologica e semantica, per cui abbiamo innanzitutto provveduto a codificare e a nominare tutti questi oggetti. Ecco, molti dei quali avevano nomi rimasti legati alla tradizione, al dialetto, magari lo stesso oggetto aveva 10 nomi, oppure 10 cose chiamate con lo stesso nome in realtà erano diverse, questo per dire complicatissima la cosa, anche solo dare un nome a ogni singolo componente, no? Sì, che è una problematica che rende poi non solo difficile la produzione, ma anche da parte dell'utenza finale essere sicuro nell'avere l'oggetto che poi è ciò che lui ha desiderato, solo per la difficoltà di poter richiedere questa determinata sua prestazione o questo determinato suo prodotto. È proprio qui l'elemento di efficienza per tutta la filiera delle costruzioni, cioè sì. Il fatto che molte inefficienze sono determinate da problemi di questo tipo. È un'efficienza terminologici. Un'efficienza di trasmissione delle informazioni terminologiche che consideri che il NIST ha considerato pari a 53 euro al metro quadrato. Ecco, il NIST in Italia è il National Institute of Standardization americano, vuol dire un'inefficienza che ci costa 500 milioni di euro per il settore all'anno. Persi per cattiva trasmissione delle informazioni all'interno della filiera. Sì. Ecco, senta, rispetto ad ognuno di questi oggetti, che tipo di informazioni saranno disponibili? Avendoli identificati in maniera univoca, a questo punto siamo riusciti a creare un sistema di schedatura che diventerà prossimamente una norma dell'UNI, uscirà fra poco una norma UNI che prende base su questa schedatura, che permette a tutti i produttori e quindi a tutti gli utilizzatori finali e anche alle imprese di conoscere il prodotto attraverso tutte le informazioni tipiche dell'oggetto, ma anche della sua posa in opera. E queste sono solo alcune delle ricadute, perché poi oltre alla migliore circolazione delle informazioni lungo la filiera ci sono altri vantaggi. Per esempio ci sono dei programmi informatici che a partire dai dati presenti in questo grande open data potranno verificare la coerenza di un progetto quanto a rispetto delle norme e a uso corretto dei componenti edilizi con un click. Inoltre tenete presente che questo sistema potrà tenere in pancia presenza non solo componenti edilizi, ma anche interi edifici con tutta la loro componentistica. Addirittura le opere pubbliche dovranno essere obbligatoriamente registrate in questo registro, e ciò ne consentirà in prospettiva una gestione molto più efficiente. Insomma, ancora una volta, uno strumento, molte ricadute positive. Smart City, la città intelligente. Bentornati in studio per questo Meglio di Smart City. Maurizio Melis al microfono. Abbiamo parlato nella prima parte di Open Data e detto che è una delle parole chiave più ricorrenti nella partita delle Smart City. Un'altra di queste parole chiave è Internet of Things, quindi Internet delle cose. Parliamo del fatto che un numero crescente di oggetti, e non di persone, sono costantemente connessi e per le ragioni più disparate alla rete. Su questa riversano dati e specularmente dalla rete possono ricevere istruzioni. Si tratta di un fenomeno in piena espansione, su cui c'è anche un rapporto annuale curato dal Politecnico di Milano nella persona di Angela Tumino, che ho intervistato per aiutarci a fotografarlo, soprattutto per come sta andando nel nostro paese. Sentiamo. Ci siamo concentrati in prima battuta sugli oggetti connessi tramite rete cellulare, okay. Non perché questa sia l'unica tecnologia abilitante l'internet delle cose, ma perché è quella probabilmente già più matura, già da anni è utilizzata con scopi... Beh, diciamo che per esempio la rete cellulare arriva quasi dappertutto, mentre altre connessioni magari oggi come oggi sono più complicate, anche se non è detto che in futuro, che ne so, il WiMAX, il WiFi non diventino diffusi quanto è oggi la rete cellulare. Ecco, quanti sono gli oggetti collegati alla rete cellulare, esclusi naturalmente cellulari, iPad, cose di questo genere, no? Non stiamo parlando di questi. Assolutamente non stiamo includendo questi, stiamo parlando di oggetti della nostra esperienza quotidiana, quindi citava prima l'automobile, okay. Piuttosto che gli oggetti della nostra casa. Ecco, a fine 2012 hanno raggiunto quota 5 milioni in Italia. Milioni. 5 milioni gli oggetti che non nascono per essere connessi alla rete, ma che vengono a un certo punto connessi alla rete, sono 5 milioni tramite la SIM, per intendersi. Ecco, più o meno come si compone questo numero? Beh, oltre 2 milioni sono automobili. Automobili per cui vengono raccolti dati relativi alla posizione, ai parametri di guida per finalità principalmente assicurative e di infomobilità. Oltre a questi, 1,5 milioni sono oggetti legati al mondo delle utilities, in particolare oggetti che concentrano i dati raccolti dai contatori per convogliarli verso i sistemi di acquisizione centrale. Quindi diciamo che servono alle compagnie, per esempio elettriche, per avere informazioni sull'assorbimento di energia elettrica, per gestire la rete elettrica, diciamo, no? Assolutamente sì. Okay. E iniziano ad esserci alcuni oggetti legati a altre utility, in particolare al mondo gas. Alcuni grandi utenti iniziano ad essere controllati, monitorati con dei contatori intelligenti che trasmettono in maniera dinamica il consumo di gas. D'accordo, quindi siamo, diciamo, in questo caso in un mondo per addetti ai lavori abbastanza. Siamo arrivati a 3,5 milioni, forse 4, l'altro milione la cosa è fatto. Beh, l'altro milione è principalmente fatto da quello che fino a poco tempo fa chiamavamo domotica, ora si sente parlare di smart home, smart building. Sono soluzioni principalmente ancora semplici, legate all'antintrusione, legate alla gestione dei nostri impianti domestici da remoto, ad esempio il riscaldamento, piuttosto che il condizionamento, ma iniziano a esserci ad esempio anche soluzioni legate alla gestione degli impianti fotovoltaici, in cui quindi possiamo monitorare l'andamento della produzione elettrica e delle altre variabili significative e per capire come sta funzionando il nostro impianto e valutare in maniera dinamica anche da remoto come sta andando la produzione. Più limitate invece sono ancora applicazioni, diciamo, diverse, più evolute di domotica, come ad esempio invece potrebbe essere il monitoraggio dei consumi con un livello di dettaglio dei singoli dispositivi. Ecco, noi ogni tanto parliamo di queste possibilità, oggi con una sorta di cruscotto energetico sarebbe possibile accendere e spegnere questi elettrodomestici in funzione dei segnali di prezzo che arrivano dalla rete, cioè quando l'energia elettrica costa meno io ti accendo, mi lavi la camicia, come dire, e ti spengo se invece l'energia costa tanto. Questa è una delle applicazioni cui lei sta facendo riferimento, giusto? Sì, esattamente, che però cose di questo ad tipo. Oggi sono ancora poco di iper minoritari. L'ultima tipologia è legata ancora una volta al mondo più industriale, è legata alla gestione dei beni ad alto valore, quindi alla gestione degli ascensori, alle cosiddette gambling machine, che sono le macchinette, certo, per il gioco nei locali, e questo anche per funzionalità di controllo, di presidio. Siamo in chiusura di questa puntata speciale dedicata al meglio di Smart City, con un focus molto informatico, se così possiamo dire. Allora vi voglio lasciare con una delle tecnologie di punta che stanno emergendo e che ci porta quasi nel mondo della fantascienza, quello di Star Trek col suo ponte ologrammi, perché quello che hanno realizzato al CSRV, il Centro Studi Realtà Virtuale in provincia di Como, non è poi molto differente da un ponte ologrammi. Una stanza con quattro pareti e proiezioni tridimensionali che mutano, seguendo le regole della prospettiva, al mutare della posizione di chi vi si trova all'interno, con un effetto di immersione totale. Queste tecnologie oggi stanno diventando accessibili anche alle piccole e medie imprese, ed è proprio questo l'obiettivo del progetto SAFE in corso al CRSV, di cui ho parlato per capire un po' meglio con Stefano Poretta. Sentite. Sono almeno 10 anni che la realtà virtuale viene utilizzata nel mondo soprattutto direi dell'automobile e anche dell'avionica, laddove si vogliono andare a curare gli interni per vedere l'ergonomia dell'oggetto. Ma banalmente esistono oggi automobili che nel loro cofano hanno motori che vanno dai 3 cilindri 1.400 ai 6 cilindri 3.200. Ecco, l'andare a simulare con la realtà virtuale l'accessibilità di questi motori all'interno di questi cofani è una cosa che viene comunemente usata nel mondo, direi da almeno 10 anni. Insomma, anche qui l'obiettivo è evitare una prototipazione reale, che è costosissima. Se poi si sbaglia un progetto nel settore automotive, i costi sono assolutamente... I modellini erano di legno. Dicevo, nel mondo dell'automobile effettivamente era questo. La scommessa nostra è stata quella di dire: ok, siccome nel giro di un anno e mezzo la tecnologia 3D si è abbassata di prezzo, probabilmente si ha la possibilità di diffonderlo anche a imprese medio-piccole di questo. Ecco, facciamo qualche esempio del tipo di applicazioni che questa tecnologia può trovare in altri settori del business che finora non se lo sognavano nemmeno. L'esempio più classico sono le cosiddette società di contract, che sono le tipiche società che fanno le 100 camere d'albergo per l'albergo di Dubai, o le 100 stanze cabine di una nave. Ecco, il committente normalmente, fino a qualche tempo fa, chiedeva di fare una decina di mock-up reali di queste stanze per poterli valutare, per poter... Quindi per valutare per esempio una decina di alternative diverse, no? Assolutamente, sì, esatto. Qui ne possiamo valutare se impostate 100, certo, o 500 di varianti diverse. Certo, poi alla fine si vorrà sempre avere la cosa reale, però invece di farne... Però magari se ne fa una. Se ne fa una sola. Certo, si apporta se serve poi qualche modifica. Modifica, esatto. Guardi, un'altra cosa sono le applicazioni fieristiche. L'abbiamo scoperto un po' per caso, perché un nostro cliente voleva portare una macchina meccanica lunga 50 metri ad una fiera a Las Vegas e ovviamente aveva dei costi. Ecco, gliel'abbiamo virtualizzata e abbiamo avuto 3 vantaggi, dei costi minori, comunque un'attrattiva maggiore per chi passava alla fiera, e il fatto che la macchina poteva funzionare, mentre in una fiera normalmente una macchina non funziona. Un'altra applicazione molto interessante che abbiamo trovato è nel settore della manualistica, soprattutto di componenti meccanici un po' complessi. Ecco, un conto è avere un libro alto 200 pagine che ti spiega come smontare una pompa, un conto è vedere la sequenza di smontaggio della pompa in 3D, magari potendo ruotare l'oggetto guardando esattamente da tutte le parti dove vanno tutti. Ecco, e tra l'altro qui stiamo entrando in un campo di applicazioni dove non serve più la stanza con quattro pareti e sistemi di proiezione molto, molto complessi, se non sbaglio, no? Questo è un punto molto importante, perché la stessa applicazione funziona nella case, ma funziona sul televisore 3D, funziona sull'iPad e con un po' di lavoro funziona anche sul telefono mobile. Torniamo in studio, ma è giusto il tempo di augurarvi ancora una volta buon primo maggio e ricordarvi che, a parte le occasioni speciali come questa, Smart City va in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 21:05. Ancora un saluto da Maurizio Melis.